Nel momento in cui notiamo che in una relazione nasce qualche intervento che smorza l'energia, che la abbassa, che la fa diminuire, come possiamo intervenire? La confrontiamo? C'è cioè qualche modalità? Sì, non ho una risposta su questo, non, dipende dal, molto dal Dipende dai casi, contesto, no? chiaramente, sì. Dipende molto dal contesto, perché se non abbiamo nessun tipo di, siamo in un gruppo, non abbiamo nessun tipo di contratto, come posso dirti non Infatti. fare così, fai così, lei mi dice, ma io faccio come, mi gira, anzi spesse volte la persona che smorza lo fa praticando il racket, quindi è fatto in modo tale da essere È coperta. molto complesso, Ecco, secondo me. quindi intervenire significa intervenire su una cosa di questo tipo è molto delicato perché socialmente non siamo abituati a coglierle. Se fossimo abituati a coglierle non la farebbe più nessuno. Ecco, per esempio, nessuno va in giro dando calci e pugni, di solito non si fa. Perché? Perché è evidente, si danno calci e pugni dal punto di vista delle parole. Ecco, quello. Ma facendoli in modo tale, anche lì non si passa dagli insulti. Gli insulti sono stati eliminati. Vedi, nel codice penale ci sono le lesioni personali, è un reato, e anche l'ingiuria è un reato, no? Però più sottile invece puoi fare quel che vuoi. Ecco, il danno che viene fatto da una cosa sottile a volte è superiore a quello di un'ingiuria o di un cazzotto, perché il cazzotto almeno la persona dice, beh, me l'ha dato, guarda che non posso essermelo inventato. Invece una sottile maldicenza, una sottile cosa può entrare dentro perché è coperta dalla, diciamo, dall'uso comune che se ne fa e quindi a un certo punto diventa un doppio legame, nel senso che doppio legame va breve anche, perché cosa succede? Che ti viene magari fatta col sorriso sulla bocca, in realtà è un veleno, quindi ti viene dato del veleno col sorriso, è come dire, ma se tu ti ribelli a sto veleno, fai la figura del cretino che non capisce che invece è un atto bonario, che è uno scherzo. Se invece lo accogli, ti entra dentro e ti avvelena. Allora, è chiaro che noi siamo tanto più sensibili ai veleni quanto più li pratichiamo noi, eh? Perché se io non mi svaluto, non mi squalifico e un altro mi svaluta e mi squalifica, sono immunizzato. Può entrarmi, mi entra un centimetro, viene espulso dal mio sistema immunitario, non mi fa nulla. Se invece io ho questi veleni, li pratico al mio interno, mi entrano a bizzeffe. Ecco. Allora, lì, sai, c'è una certa psicologia che dice, no, te devi diventare quella persona che può, col tuo sistema immunitario, vivere in un luogo dove c'è la pestilenza e non prenderti mai niente. Però spesso coloro che praticano dicono questo, a loro volta, o se ne guardano bene dal praticare certi ambienti, se ne tengono lontani, oppure raccontano delle balle, perché è molto difficile non essere toccati da certi tipi di interventi, proprio perché sappiamo che il nostro sistema limbico è un sistema aperto, quindi reagisce a determinate qualità dell'energia. E per poter non reagire, ma rispondere, cioè passare dalla reazione della piccola mente alla risposta della grande mente, occorre un grosso lavoro. Quindi, diciamo francamente, la maggioranza delle persone non passa dalla piccola grande mente solo perché ha fatto un po' di counseling, un po' di terapia. Quindi, i contesti dove c'è veleno vanno riconosciuti. È un grosso lavoro che io credo sia un lavoro che almeno in parte va svolto collettivamente. Ecco, in una famiglia dove si, o in un gruppo dove si pratica il veleno, va bene, insomma, è molto normale, però a questi punti per uscirne se lo deve confrontare uno da solo, ogni volta con gli altri che fanno tutti insieme, difendono il sistema, C'è l'empatia. non ce la fai. Ecco perché nel buddismo, per esempio, ma anche nella Chiesa, Ecclesia e Chiesa vorrebbe dire l'assemblea, no? In cui noi partecipiamo tutti insieme per contrastare le forze distruttive. E nel buddismo ti dice, guarda, tu puoi praticare meditazione, ma se lo fai da solo andrai poco lontano, tu hai bisogno di qualcuno, dei fratelli con cui ti tieni insieme, dei compagni di viaggio. Oggi con l'individualismo che si sta sviluppando, è tremendo, perché se siamo degli individui tutti separati in competizione tra noi, cioè ognuno è imprenditore di se stesso, viene meno quel senso di fratellanza che ci consente di avere quella forza di poter sviluppare da passare dalla piccola alla grande mente. Quindi, diciamo così, la situazione di oggi è molto difficile perché ancora più di una volta, se si può dire così, c'è proprio la tendenza all'individualismo e alla separatività è potentissima. Ecco, proprio il cervello. Fonte di malattie. È una fonte di malattie ovunque. Continuo, sì. Di malattie ovunque. Sì, sì. E quindi la medicina che non si occupa di queste cose, tutto sommato, è ancora una piccola medicina. Per arrivare alla grande medicina bisogna che queste cose vengano viste. Naturalmente se mentre vedi queste cose ti riempi di rabbia, sei nella piccola mente fino al collo. Ecco, la grande mente vede tutto con compassione e con sorriso, ecco, e lascia andare. E quella è la forza. Ecco, per rispondere alla tua domanda, quindi se tu vedi un contesto dove accadono quelle cose, delle cose distruttive, se dentro di te rimane un canto e un sorriso interiore, e tu stai già facendo tutto quello che c'è da fare, perché se anche c'è una danza distruttiva in quel momento, ma tu la circondi di una musica, di una colonna sonora musicale tua più grande, più potente e più elevata, è molto facile che qualcosa succeda, ed è l'intervento che tutto sommato è meno invasivo di tutti, no? Perché non intervieni sullo stesso piano. I bambini, questo è fantastico, in famiglia, per esempio, ricordo sempre un episodio, c'è un'amica Yoi che era andata a casa di una sua amica, e la quale era disperata perché suo figlio, suo bambino piccolo, era sempre agitato, in quella famiglia lì erano tutti preoccupati. E la Yoi prese in braccio sta bimba e vide che effettivamente era molto agitato e cominciò a agitarsi anche lei. Gli venne in mente che forse se lei si calmava sarebbe stato meglio, e ha cominciato a respirare in altro modo. E dopo pochi minuti il bambino si è calmato. Quindi il bambino stava risentendo di un clima della famiglia, si era creato un loop, il bambino agitato agita la famiglia, e la famiglia agitata agita il bambino. Certo. E poi si va tutti dallo psicologo a sapere cosa si deve fare. Ecco.